si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, ben ritrovati con Si può fare anche nella versione domenica. Siamo tornati nel weekend, rinizia dunque la stagione di Si può fare, la domenica dalle 8.30 fino alle 11 insieme. I nostri contatti sono i soliti, se volete contattarci in tempo reale su Twitter l'account del programma è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Poi tra un po' apriremo anche il numero verde per intervenire in diretta. E oggi, ve lo dico subito, un grandissimo premio per il nostro gioco della giornata. Il gioco è il personaggio della settimana da indovinare, l'indizio ve lo daremo dopo il giornale radio delle 9. Vi dico già che cosa si vince, perché è un premio straordinario, è tutto il corso Business English 24 che il Sole 24 Ore offre, cioè mette in vendita, per dire la verità, in edicola ogni giovedì il DVD, ogni venerdì il libro, un corso per perfezionare il vostro inglese da lavoro e quindi per la vostra carriera, che noi vi regaliamo tutto insieme oggi, indovinando appunto il personaggio della settimana, tra poco però, dopo il giornale radio delle 9, come detto. Adesso andiamo a iniziare. And now the good news. Oh, e come ogni mattina per iniziare lo spunto di una buona notizia. Milano, un'altra rivoluzione: dopo il bike e il car sharing si affitteranno anche gli scooter. Questa settimana che si apre, tra l'altro, è quella della mobilità sostenibile per quanto riguarda l'Europa, settimana europea della mobilità sostenibile. Allora è giusto dare questa notizia. Palazzo Marino segue l'esempio di Barcellona e Parigi, studia l'avviso pubblico che consentirà di raccogliere le offerte per la gestione del servizio, cioè entro la fine dell'anno l'amministrazione di Milano emetterà una gara per fare l'offerta, per offrire questo servizio in città di scooter sharing, insomma mobilità sostenibile da tutti i punti di vista. Milano sicuramente in questi anni è all'avanguardia in Italia, ma non è l'unica. Vai! Ma andiamo a vedere invece di che cosa si occupano i giornali di oggi. Purtroppo la notizia che non avremmo mai voluto vedere: decapitato un altro ostaggio, scrive il Corriere, terzo video shock, la vittima è un cooperante britannico, l'ISIS minaccia l'esecuzione di un quarto prigioniero, messaggio a Cameron, paga l'appoggio ai curdi. Andiamo a vedere chi era questo cooperante inglese. Brevemente all'interno del Corriere, subito, l'inviato Michele Farina scrive: hai 17 anni, rapiscono tuo padre in Siria e non puoi dirlo a nessuno, nemmeno al fidanzato, fingere che va tutto bene. Questo ha fatto per 17 mesi la 17enne Bertrand Heinz, la figlia di Heinz, fino a 10 giorni fa, quando suo padre è comparso in ginocchio nel video dei terroristi dell'ISIS. Aveva 44 anni, inglese dello Yorkshire, cresciuto in Scozia, educazione al Perth Academy, una breve carriera sotto le armi interrotta nel 99, da allora aveva sempre campato nel settore della sicurezza privata all'estero, in pratica curava la sicurezza per le ONG che lavorano in giro per il mondo. L'ultima missione con un italiano, Federico Motka, al confine con la Turchia. Motka però era stato rilasciato a maggio, lui invece no. Il Corriere in prima pagina, sempre a proposito della guerra, ci ricorda le parole del Papa di ieri, piuttosto importanti: il Papa contro la guerra, una follia di affaristi. A Re di Puglia, tra i caduti del conflitto del 15-18, del 14-18 in realtà, il Papa ha detto questo, cioè la guerra è una follia e anche oggi c'è l'ombra di Caino. Poi ancora durissimo con i pianificatori del terrore, gli organizzatori dello scontro, gli imprenditori delle armi. Poi c'è una foto a centropagina del Corriere, la ragazza che sfida Teheran, voleva vedere il volley maschile, arrestata. Notizia che gira da qualche giorno, in realtà è stata arrestata con un gruppo di ragazze per aver provato ad assistere ad un incontro di pallavolo maschile sfidando il divieto per le donne. È successo a Teheran il 20 giugno. Lei si chiama Gonche Gavami, ha 25 anni, è cittadina britannica. Ora la sua famiglia ha rotto il silenzio. Andiamo su Repubblica, dove c'è un vabbè, l'altro titolo importante di giornata è quello che riguarda Renzi e l'Europa, però questo diciamo è un tema ricorrente. L'UE incalza, le riforme vanno attuate, Renzi insiste, sbloccate i 300 miliardi per gli investimenti. Però sempre in tema di ISIS, Repubblica ha un'importante intervista a uno jihadista da parte di Pietro Del Re. Sentiamo il punto di vista dello jihadista. Sono un combattente, non mi vergogno di dire che ho già ucciso con il coltello e con l'esplosivo. Le nostre brigate non decapitano solo giornalisti stranieri, ma anche poliziotti locali, burocrati, spie e tutti coloro che lottano contro di noi. Ho sempre eseguito gli ordini dei miei capi senza prendere io stesso iniziative. Ma come spiega tanta crudeltà e tanta macelleria nelle vostre guerre? Dobbiamo vendicare i fratelli sunniti e difenderli dallo strapotere sciita. Credo che in guerra sia tutto permesso, compreso la crudeltà, come del resto dimostrano gli americani e l'esercito sciita di Baghdad quando compiono i loro massacri sulle popolazioni sunnite. È per questo che la gente sta dalla nostra parte. I sunniti iracheni hanno accolto a braccia aperte i combattenti del califfato, gli dice Pietro Del Re. Sì, non è stato così però per gli yazidi o per i cristiani della piana di Ninve. In 700.000 sono dovuti fuggire. Sarebbero potuti restare, dice lo jihadista, bastava che si convertissero all'Islam. Sì, ma per vivere nel terrore poi? Ma quale terrore? Sentite qua, lo Stato Islamico offre cure mediche gratuite, cibo ai più bisognosi, posti di lavoro ai disoccupati. Siamo un grande Stato a tutti gli effetti. Abbiamo perfino aperto due fabbriche di armi vicino a Mosul. E vabbè, insomma, è così di questo passo. È vero che prima di andare in battaglia assumete allucinogeni? No, a molti di noi basta fumare dell'erba. Alla presa di Mosul hanno partecipato anche jihadisti stranieri? Sì. E adesso combattono al nostro fianco per difendere la città. Sono inglesi, tedeschi, tunisini, libici, afghani, ceceni. Il nostro è un meraviglioso esercito internazionale. L'intervista di Pietro Del Re a uno jihadista, credo siriano. La stampa, velocemente, per altre due notizie che riguardano l'estero. Svezia al voto con l'incubo dei neonazi. Oggi si vota in Svezia, vedremo come va a finire. C'è l'incubo dell'estrema destra. Invece l'altra notizia, in Scozia in bilico tra la Scozia in bilico tra indecisi e fuga di capitali. Giovedì si vota, secondo un sondaggio gli unionisti sono al 45%, invece i nazionalisti al 46%, esclusi gli indecisi. Un'ultima segnalazione sul Sole 24 Ore, a proposito del vertice che c'è stato a Milano, il vertice Ecofin, i due commenti: l'Italia non tema la vigilanza, scrive Alberto Quadrio Curzio. Adriana Ceretelli invece: solo i fatti salvano l'Europa. E quali sono i fatti? Questi, scrive Ceretelli, in Europa la ripresa non si vede, 27 milioni di disoccupati sì, tutte le grandi aree del mondo crescono, tutte tranne l'Eurozona, dove negli ultimi 7 anni gli investimenti sono crollati del 20%. Se questo è vero, se è vero che la sostenibilità del debito italiano passa per un tasso di sviluppo almeno del 2,6%, la vera malattia da curare si chiama sviluppo. La diagnosi è chiara, ma la terapia meno. Ieri però a Milano la novità è stata definita una strategia, scrive la Ceretelli, politica monetaria espansiva, politica fiscale per permettere di trovare spazi di flessibilità nel patto di stabilità, cosa che abbiamo sentito a dire la verità mille volte, e le famose riforme strutturali. Questa è la teoria, vedremo se seguiranno i fatti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo benvenuti a Si può fare. Torniamo anche la domenica dopo una pausa estiva in cui ci siamo sentiti soprattutto durante la settimana con Si può fare estate dalle 18 alle 20:30. Adesso ritorniamo nel nostro spazio del weekend e ritroviamo come sempre a quest'ora anche Armando Massarenti. Carissimo Armando, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno e buon rientro. Anche a te. Buon rientro a tutti. Anche sì. A te nella veste di nostro cicerone curatore, come sapete, del domenicale, Armando Massarenti. È passata un'estate. Adesso come rilanciamo? Intanto com'è andata la tua estate? Tutto bene? Ma intanto sì, l'estate è andata molto bene, qualche vacanza seppure limitata, perché poi il domenicale esce tutta l'estate e certo, insomma, la cultura non va mai in vacanza. Devo dire che anche in questo settembre, no, come si sa, è la stagione dei festival. Io in questo momento sto tornando, ho preso proprio adesso, mi chiamo dal treno, spero che questo non provi. Per ora va tutto bene, Armando, incrociamo le dita. Da Modena, dove ieri sera ho fatto questo esperimento di parlare appunto in un festival di filosofia, della filosofia antica in relazione ai punk, c'è una mostra molto bella appunto sui Sex Pistols eccetera, quindi la filosofia antica spiegata attraverso i punk è stata un'esperienza abbastanza notevole. Come è andata? Com'è andata? Il pubblico come ha reagito? Il pubblico ha reagito molto bene, c'era soltanto un punk, un giovane di un sedicenne, di un punk di oggi, che poi... Ma ci sono ancora i punk oggi? Ma infatti questo è interessante, perché era un punk diciamo stilizzato, al contrario di quelli che conoscevamo noi negli anni 70, che invece appunto avevano molto di più le caratteristiche appunto dei filosofi antichi di cui io parlavo, cioè appunto i cinici, no? Diogene il cinico, che andava in giro praticamente... così senza nulla addosso, e dicendo che non serviva a nulla neanche la ciotola che lui aveva al collo quando ha visto uno che beveva, insomma. Quindi è stata un'esperienza interessante, insomma, tra il pop e l'alta cultura. Il festival ha avuto il successo consueto, la settimana scorsa c'è stato Mantova, insomma è la stagione un po' dei festival, ma noi andiamo avanti in realtà, perché di festival della filosofia avevamo parlato soprattutto domenica scorsa con uno speciale sul tema che era la gloria. Invece questo numero lo apriamo con una vera rarità, perché è uscito un libro tale Giuseppe Pelli, che uno può dire un illustre sconosciuto, ma in realtà è colui che scrisse un enorme trattato sulla pena di morte, contro la pena di morte, sviluppando 7 prove e che prima di Cesare Beccaria, prima del grande Cesare Beccaria, dei delitti... Quindi un anticipatore, insomma, di questa tematica importante, esatto, un altro italiano, idea, certo. Esatto, allora c'è questo pezzo molto bello di Massimo Firpo, che parla appunto di questo libro che è uscito ora e che mostra quanto ci fosse un clima generale, insomma, al di là della grandezza del nostro Cesare Beccaria, ma insomma questo... Giuseppe Pelli aveva anticipato molto delle sue tesi, tra l'altro molto sportivamente, quando vide uscire prima del suo libro, che in realtà non era stato pubblicato, quando vide uscire Cesare Beccaria ne fu assolutamente felice, dicendo sì, è proprio quello che ho scritto io. Poi l'altro è passato alla storia e lui no, vabbè, ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Poi mi piacerebbe segnalare un pezzo, ce ne sono tanti come sapete i pezzi, a me piace dare un'offerta molto variegata, poi chiaramente sta alla fantasia e alla volontà del lettore soffermarsi su una cosa piuttosto che un'altra. C'è questo libro che è uscito negli Stati Uniti, The Sound Book, recensito, anzi frutto insomma di una lunga riflessione di Roberto Casati, che ci racconta in maniera molto curiosa ma anche molto scientifica la scienza dei suoni e dei rumori, cioè perché ci piacciono certi rumori e non ci piacciono altri rumori, perché ci piace il silenzio ma a volte ci dà fastidio. Quindi è una riflessione molto originale, curiosa, originale, dove viene fuori che in realtà io adesso sono in un treno in realtà molto rumoroso, non è molto piacevole, però a volte ci piace, no, anche il rumorino del treno. Infatti viene fuori che spesso le persone preferiscono dei suoni artificiali che magari si ricordano delle situazioni familiari, non so, il tram, delle voci del cortile, e quindi è molto originale tutto ciò. Poi noi andiamo avanti, è la terza lettera, niente meno che il nostro grande poeta Giacomo Leopardi ci scrive, scrive direttamente alla Domenica, ovviamente è un gioco, certo. Sono consigli alla patria da Giacomo Leopardi, perché noi vogliamo mostrare la straordinaria attualità di Giacomo Leopardi, non solo come poeta ma soprattutto come filosofo e come osservatore dei costumi degli italiani, e quindi ne traiamo dei consigli andando rigorosamente a prendere, ed è a cura questo di Antonella Antonia Paolini, che ha fatto lavoro per noi, ma le lettere sono assolutamente di Giacomo Leopardi, perché sono tutti testi tratti dai suoi scritti. E questa terza lettera l'abbiamo intitolata Fate il bene almeno per vanità, perché dice Leopardi l'unica salvezza che possono avere gli italiani è di fare come hanno fatto le altre nazioni moderne, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, cioè di... Armando Massaretti, lo stiamo perdendo. Armando, è andato un attimo via il collegamento. Proviamo, vediamo adesso se riesce a finire il discorso. Io vi sento. Ecco, io sì, adesso ti sentiamo di nuovo, perfetto. E diceva Leopardi che noi dovremmo abituarci a fare il bene, almeno per vanità, appunto, per amore, semplicemente come ci vergogneremmo ad andare ad una festa con una macchia sul vestito. Questa mi sembra una cosa straordinaria, cioè se uno non ha altre motivazioni, almeno questa. Noi che ci chiamiamo Si può fare, che diciamo andare sulla strada del bene, ci proviamo, almeno a seguire chi la fa. Questa è una motivazione in più, Armando. Grazie, tra l'altro. Assolutamente. No, infatti questo poi consolida dei valori veri, però, ecco, è sempre un gioco, ma in realtà è la vera strategia che un paese moderno dovrebbe seguire. Senti, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un minutino. State preparando qualche campagna? Vuoi tirare le fila di qualcosa? Perché insomma il Domenicale è anche un luogo di dibattiti, di campagne, di appelli, di iniziative importanti, Ma diciamo così, guarda, questa cosa di Leopardi poi costerà sulla scia di una cosa che su cui martelleremo poi per tutto l'autunno, che è la ripresa di quella mia proposta di rinvigorire la cosiddetta educazione civica, che in trattato si chiama cittadinanza e costituzione, per farla diventare una materia obbligatoria e che in nuce dà quegli strumenti necessari, che sono strumenti poi filosofici, ma insomma di base, che sono la capacità di argomentare, la capacità di scoprire le falsi argomenti. Insomma, ne sentiremo delle belle ancora su questo fronte, sicuramente da te, Armando, qua con noi a Si può fare, ma soprattutto sul Domenicale, oggi in edicola, tra l'altro, quindi un invito ad andarlo ad acquistare. Grazie, bentornato. Grazie. Ancora buona domenica, buon viaggio. Buona domenica, grazie. E ritroveremo Armando Massaretti la settimana prossima, come sempre a quest'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, 9:17 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Si può fare, ben ritrovati anche la domenica dopo insomma la pausa estiva nella quale non eravamo in diretta nel weekend, eravamo in diretta in altri orari, lunedì e venerdì. Adesso torniamo e poi avremo anche Carlo Gabardini, naturalmente lo dico perché ieri ci siamo sentiti, lui è ospite, insomma invitato alla festa della rete, alla Blockfest di Rimini, quindi fuori sede, assente, giustificato. Diciamo così, ancora per questo weekend, lo ritroveremo il prossimo, poi naturalmente con Andrea Piana, che è autore insieme a me di questo programma, Giorgio De Luca, oggi c'è Lucia Tolve, redazione, Peter Bescapè in regia, ciao Peter, anche se ormai è un'oretta già che siamo insieme. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, perché si chiama il sabato e la domenica mattina si interviene in diretta per commentare le buone notizie, per dire la vostra e anche per giocare, perché riprendiamo a giocare anche questo fine settimana, anche oggi l'ho già detto c'è un premio importante, la collana Business English del Sole 24 Ore, che è in edicola il giovedì col DVD, il venerdì con il libro, però oggi potete vincerla tutta insieme, dovete indovinare il personaggio della settimana. Diamo il primo indizio. Allora, intanto c'è una notizia, dovete pensare a un personaggio che è collegato a una qualche notizia di questa settimana. L'indizio primo è questo: nel 2013 ha partecipato alla notte degli Oscar. Il primo indizio non è facilissimo, come sempre succede, ma insomma tant'è. 800 24 00 24, cominciate a pensare e a chiamare. Adesso invece andiamo in Alto Adige, andiamo a Malles, il primo comune in Italia, credo, a bandire l'uso dei pesticidi, cioè della chimica, in agricoltura. Chi non ha sognato un'agricoltura senza pesticidi? Sono la mosca dispettosa, antipatica e noiosa. Mio fratello è il moscerino, anche lui è birichino. Siamo gli insetti, siamo piccini, fastidiosi e nocivi e dispettosi. Siamo gli insetti, siamo piccini, fastidiosi e nocivi e dispettosi. Buongiorno Alessandro dal Piaz di Assomela. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Assomela, che sarebbe, diciamolo, l'associazione dei produttori di mele, perché in Trentino si producono tantissime mele. Trentino Alto Adige. Alto Adige, mi scusi, certo. Specifichiamo, perché io ho letto da qualche parte che in Alto Adige si produce il 10% di tutte le mele d'Europa, è così? Effettivamente in Trentino Alto Adige il 15%. Ecco, addirittura il 15% di tutte le mele che si mangiano in Europa, quindi una cosa straordinaria. Voi in questa partita, diciamo, del referendum nella piccola cittadina di Malles, 5.000 abitanti credo, in Alto Adige, vi siete schierati per il no. Adesso poi ci spiegherà tutto come e perché. Insomma, l'argomento è chiaro, no? La lotta proprio contro gli insetti. Le è piaciuta la musichetta che abbiamo utilizzato per introdurla? La musichetta, sì, sugli insetti. Bravi. Insomma, è la lotta agli insetti e alle malattie che giustifica da tanti anni ormai l'uso della chimica in agricoltura. Però poi il sogno di di poter mangiare prodotti di agricoltura privi di qualunque cosa chimica nociva è un sogno che ce lo portiamo dietro tutti. C'è l'agricoltura biologica, è una cosa ancora di nicchia. A Malles hanno voluto votare questo referendum. Intanto voi, mi conferma, vi siete schierati per il no? Noi non ci siamo schierati, l'associazione non è intervenuta sul referendum di Malles. Malles si è gestito questa situazione come meglio pensava di fare. È un esempio che noi abbiamo seguito, questo sì, ma dall'esterno. Però insomma si è aperto un dibattito, c'è stato un fronte del sì, un fronte del no. Il referendum è passato, ha vinto il sì col 75%, cioè è stata votata la messa al bando appunto dei pesticidi. Ora io fra l'altro non so, lei lo sa come dal punto di vista operativo, se è già operativa questa decisione? Io penso che non sia operativa, le ripeto, mettiamola un po' col condizionale, perché per rendere operativa una decisione del genere non è sufficiente l'esito di un referendum, dovranno seguire eventualmente altri atti. Sì, una decisione proprio della giunta, del comune. Però in Italia l'utilizzo di queste sostanze è regolamentato anche da leggi nazionali, immagino, no? Ma prima di tutto è regolamentato da normative comunitarie, sono almeno 5-6 soggetti nella comunità europea e nei diversi paesi che si occupano di ammissibilità delle sostanze fitosanitarie. Questo è il termine giusto che mi piacerebbe sentire usare, non tanto pesticidi, insomma, poi i modi con i quali vengono usati sulle diverse derrate alimentari e filiere produttive, insomma tutti gli aspetti che governano un pochettino le modalità di uso dei fitosanitari. Perché insomma questi fitosanitari, che lei preferisce chiamare così, volgarmente detti pesticidi, sono, voi che producete il 15% delle mele d'Europa, li utilizzate, e altrimenti non ci sarebbe una produzione anche così ampia. Ecco perché io ho detto vi siete schierati per il no. Insomma, so che tra voi c'è un po' di preoccupazione, perché se questa cosa diventasse, diciamo, una decisione che si estende, il vostro, diciamo, modello di agricoltura, di produzione delle mele potrebbe risentirne. Mi dice intanto è vero quello che sto dicendo io, perché la sento titubante. In che senso mi sente titubante? No, le ho chiesto se vi siete schierati per il no e mi ha detto no. Io pensavo che invece mi dicesse sì, no. Per difendere le vostre. Quali sono le vostre ragioni in questa questione? Vede, il nostro mondo è impegnato da molto tempo. Certe sollecitazioni che oggi sono così ampie e anche giustificate, sicuramente insomma si capiscono, per noi sono state motivo di impegno almeno da 30 anni. Tutto il settore si è mosso su questa logica da tantissimo tempo. Sì. I famosi disciplinari, che allora si chiamavano protocolli di autodisciplina, sono nati alla fine degli anni 80, quindi la necessità, diciamo, di meglio governare questo processo produttivo, cercando di limitare compatibilmente un pochettino con il risultato economico. L'uso dei fitosanitari è una storia vecchia per noi, oggi certo. Abbiamo tantissimi risultati, tantissime cose, insomma, se siamo a un certo punto è anche perché abbiamo un passato molto ricco. Cioè, se oggi per esempio se ne usano di meno che in passato? Se ne usano molto di meno, sono ormai banditi i fitosanitari, a questo punto le chiamerei anche pesticidi, insomma, no, che a quel tempo davano problemi, potevano potenzialmente dare problemi piuttosto importanti. Oggi quello che si usa è molto regolamentato, insomma, mi faccia dire che se si usa entro i limiti e nei modi con cui ci viene dato, insomma, ci viene detto da parte delle autorità, insomma, noi siamo piuttosto tranquilli sul Che cos'è che si usa? Perché poi sa, anche questi limiti, diciamo, europei o in generale limiti di utilizzo di sostanze, di questioni, di parametri, si sa che possono cambiare con le stagioni, sono cambiati. All'epoca si consentivano più cose nei limiti della legge, però poi abbiamo scoperto che non andavano bene quelle cose. Oggi che cos'è che è consentito? Cosa utilizzate voi, per esempio, per produrre la mela in Alto Adige? Principalmente sono sostanze per contrastare i funghi, le cosiddette criptogame, e una serie di insetti che altrimenti potrebbero compromettere la produzione. Non vorrei scendere nei dettagli tecnici, evidentemente, no, vabbè, faccio semplicemente dire, insomma, non è forse il luogo, insomma, no? Sì, faccio semplicemente dire che attraverso un uso ragionato oggi si riesce a rendere compatibile un po' tutto, insomma, vedendo soltanto il cambiamento di direzione. Quanto è ricca oggi, diciamo, di forme di vita l'ambiente produttivo dei nostri frutteti, direi che risultati positivi ce ne sono stati tanti. Però per aggiungere prego, vada. Perché si dice sempre, no, cambia. È vero che è cambiato, soltanto qualche anno fa c'erano più di 1000 sostanze ammesse a livello comunitario impiegabili nella produzione, insomma, sì, in senso ampio. Oggi sono 300, insomma, questo è il primo risultato del impegno, appunto, che l'autorità pubblica europea ha posto in questo ambito. Se ne usano di meno. Dal vostro punto di vista, un modello di agricoltura per la produzione delle mele, a questo punto parliamo, principalmente totalmente privo di pesticidi o di fitosanitari, come dice lei, è sostenibile? Cioè, si potrebbe fare? No, oggi noi possiamo tranquillamente dire che non si potrebbe fare. Perché? Se vogliamo tenere vivo il settore, evidentemente, perché l'incidenza, la pressione, diciamo, di questi patogeni avrebbe la prevalenza, quindi metteremo a rischio la produzione finale. Però le torno a dire che l'obiettivo di ridurre continuamente il ricorso a queste sostanze e fare soltanto l'indispensabile, tenendo ben presente i due punti sensibili: uno, che è il rischio per il consumatore, che oggi è molto molto scarso, insomma, diciamo. Sì. Dal punto di vista del consumatore, mi faccia dire che io sarei estremamente tranquillo, insomma, no? Questo è l'impegno dei 30 anni, ma il secondo lato, che è quello di essere un pochettino più, come dire, vicini anche alle esigenze delle collettività che sono presenti nei territori di produzione, questi sono due obiettivi che sono quotidiani per noi. Ecco, però perché secondo lei invece questo tema dell'agricoltura biologica, che è molto in crescita, numeri in crescita, c'è molto interesse da parte delle persone, forse più di prima, forse per degli spaventi che ci siamo presi in passato, perché secondo lei, oppure non, diciamo, è ingiustificata questa crescita? Ma no, mi faccia dire, insomma, il settore del biologico ha una propria importanza, nessuno di noi, insomma, la sottovaluta, la si segue anche con estrema attenzione, in estrema apertura, e evidentemente anche questo è un fattore economico, bisogna seguire un pochettino il mercato oltre alla domanda del consumatore. Ma c'è comunque un aspetto che va ricordato, ma questo lo dico senza polemica, evidentemente: non è che biologico, almeno per quanto riguarda la produzione di alcuni prodotti, tra i quali la mela, vuol dire non uso di fitosanitari. Si usano fitosanitari di natura diversa, si usano con modalità diverse, ma se si vuole arrivare a un risultato economicamente proponibile anche nel settore del biologico, è, mi faccia dire, indispensabile il ricorso a una certa famiglia di fitosanitari. Cioè, lei dice, i prodotti che oggi sono classificati come biologici in Italia non sono prodotti privi, per i quali non si usano fitosanitari, si usano, ma se ne usano meno e diversi? Se ne usano diversi. È come dire, insomma, il biologico è un processo produttivo, non è che per scelta non si impiegano sostanze che favoriscono, insomma, il raggiungimento di un risultato di una certa qualità. Vabbè, insomma, poi questo è un tema, è il tema anche di Expo, il tema del futuro. Insomma, se io dicessi ci sono tre modelli, no, di agricolture possibili per il futuro: una, quella, diciamo, tradizionale, che usa i fitosanitari, come sta dicendo lei, sempre di meno, possibilmente sempre meno nocivi; una, che è quella promessa degli organismi geneticamente modificati, che promette di non avere bisogno di pesticidi proprio per via di queste sementi particolari, non so se si applica al campo delle mele, e un terzo campo che è quello del biologico. Ci sono queste tre. Lei su cosa scommetterebbe per il futuro, guardando avanti? Io scommetterei in un progressivo avvicinamento tra i due metodi produttivi dell'integrato, che è quello diffuso ormai, non si parla più di produzione convenzionale, sì, è il metodo più applicato, insomma, in Italia, mi faccia dire, al biologico. Questi sono due processi produttivi che devono, come dire, avvicinarsi progressivamente. L'uso della genetica in senso lato aiuterà a raggiungere altri risultati, che sono quelli di maggiore resistenza o maggiore tolleranza verso determinate patologie. Ecco, ma per le mele si utilizza il geneticamente modificato? No, ancora no. Non esiste il geneticamente modificato nel caso delle mele. Non è che gli impianti sono fatti partendo dalla semente, il processo è più lungo, è diverso, esattamente. Si possono usare tecniche che favoriscono o velocizzano il percorso di ottenimento di varietà che siano meglio tolleranti o meglio resistenti a determinate patologie. Insomma, comunque adesso a Malles, in Alto Adige, vedremo, perché se passerà questa... C'è qualche produttore associato ad Assomela che produce a Malles, con cui avete parlato? Sì, vede, questo è un fattore che vale la pena che riassuma in quattro parole. Sì. I produttori di Malles sono associati all'organizzazione di produttori della loro valle, che è la Val Venosta, sì, e si chiama VIT. VIT è un grosso, come dire, consorzio che è associato ad Assomela. C'è un po' questo percorso cooperativo, mi faccia dire, che sì, a volte è anche difficile un pochettino illustrare. Ma Assomela indirettamente associa circa 15.000 aziende tra Trentino e Alto Adige. Che sì, no, ma la mia domanda, mi scusi, forse non sono stato chiaro, è se questi produttori che producono nel territorio di Malles sono pronti a eventualmente a cambiare modo di produzione, cioè a sottostare a questo regolamento che prevede il non uso dei pesticidi. Io penso che ci sarà spazio e necessità di un dialogo un pochettino meno emotivo e più sereno. Beh, ma se ci sarà un regolamento dovrà essere applicato o no? Questo sicuramente sì, ma questo per conto mio sarà frutto di un percorso che non è ancora stato fatto, mi faccio a dire che... Quindi è aperta la partita, per lei è ancora aperta la partita. Ma è aperta a Malles come in altri comuni che hanno avuto, come dire, momenti simili a quello di Malles, ma è un po' un incontro che noi dovremmo favorire tra produttori e non produttori. Non è soltanto Malles, Malles è un esempio che è un po' l'ultimo che abbiamo visto, che conferma la sensibilità del tema e conferma anche la esigenza di un fortissimo impegno che noi abbiamo messo e metteremo, insomma, su questo fronte. Va bene, grazie mille Alessandro Dal Piazza di Assomela. 800 24 00 24, chiamateci cari ascoltatori, così per dire la vostra, schieratevi anche voi, quale modello di agricoltura per il futuro avete sentito? Dal Piazza parlava di un'integrazione tra il biologico e l'agricoltura convenzionale che usa i pesticidi. All'orizzonte ci sono anche gli OGM. 800 24 00 24, se per esempio è domenica, siete nel vostro orticello a zappare, magari ci state ascoltando con l'auricolare, chiamateci perché sarebbe ancora più gustoso. Personaggio della settimana, non dimentichiamolo, primo indizio l'abbiamo già detto, ha partecipato alla notte degli Oscar nel 2013, vai. Adesso ripetete tutti dentro di voi: la mia azienda è un'eccellenza, il capo è un supereroe, i colleghi sono simpaticissimi, la mensa è squisita, squisita, squisita, squisita. Per lavorare meglio nella tua azienda c'è un altro sistema, INAZ. INAZ ti dà tutto per la business intelligence, le risorse umane, le paghe, i sistemi mobile. INAZ, Human Energy. Un tubo, ci ha mai capito qualcosa di efficienza energetica? Hai mai parlato di sostenibilità con un cavo? L'energia che serve alle imprese non è fatta solo di elettricità e gas. Repower ti offre anche la competenza di un consulente dell'energia dedicato e soluzioni di fornitura innovative, tagliate sulle esigenze della tua azienda. Questo vale qualcosa per te. Scegli Repower. Repower, l'energia che ti serve. Hai sentito l'ultima novità? La Banca Popolare di Vicenza ha creato un nuovo servizio POS a canone zero, anche senza conto corrente, per artigiani, commercianti, piccole imprese e liberi professionisti. Si possono accettare pagamenti su smartphone o tablet usandoli come POS. Possibile? Sì, con Banca Popolare di Vicenza. Tradizione e futuro. Messaggio promozionale, offerta valida fino al 15 ottobre 2014. Accrediti POS a scelta su carta prepagata o su conto corrente. Fogli informativi in filiale e sul sito. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it, prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai più di 7.000 agenti di commercio. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 28 e 29 novembre, Fiera Milano City. Vogliamo raccontarvi una bella storia. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso c'è. È la nuova Volkswagen Golf TGI Blue Motion. Oltre 1370 km di autonomia complessiva e soli 3,50 euro per fare più di 100 km. Nuova Volkswagen Golf TGI Blue Motion. La prima auto a metano che è anche una Golf. A partire da 18.900 euro. Piaciuta la storia? Scoprila nelle concessionarie Volkswagen. Info su Volkswagen.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sei mesi di condizionale, non sono niente male, per aver seminato sul mio davanzale. Sei mesi di attenzioni e cure, per tenere creature, con foglie a sette punte, con un buon odore. Mazzo la pianti, aspetti che spunti, aprire la pagina. A maggio le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Allora, siamo partiti, tra poco parleremo di canapa, come avete capito dalla musica. Prima però piccolo riepilogo, siamo partiti dalla notizia del referendum a Malles in Alto Adige, dove il piccolo comune ha messo al bando l'uso dei pesticidi per l'agricoltura. Allora vi chiediamo, cari ascoltatori, come consumatori per esempio di mele, perché lì si producono le mele in Trentino Alto Adige, cosa ne pensate? Oppure se siete voi stessi agricoltori, se avete un piccolo pezzo di terra, agricoltura biologica, uso dei pesticidi, insomma un dibattito che va avanti. Adesso c'è stata questa decisione a Malles in Alto Adige che ha riaperto la discussione. 800 24 00 24. Voglio aggiungere anche un indizio per il personaggio della settimana che andiamo a cercare e per il quale mettiamo in palio oggi il corso di inglese Business English 24, niente proprio di meno che tutto, libri e DVD. Abbiamo detto, ha partecipato alla notte degli Oscar nel 2013. Adesso aggiungo, se facesse l'università sarebbe in Erasmus. E la cannabis attiva potrebbe risanare questo mondo alla deriva, potrebbe soppiantare petrolio e derivati, la plastica e i farmaci cui siamo abituati. Sarà per questo che è vietata, ai despoti non piace, la gente rilassata e l'energia pulita. Mazzo la pianti, aspetti che spunti, aprire la bagni e cresce. A maggiore femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. E salutiamo Rachele Invernizzi di Asso Canapa, responsabile di Southamp Techno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ho pronunciato bene? Southamp, sì. Techno. Esattamente. Che sarebbe? Beh, è Sud Canapa, ma era talmente brutto in italiano che fatto in inglese è un po' più carino. Ok, stiamo parlando della produzione di canapa in Italia, perché allora intanto diciamo una cosa, la cannabis a scopo terapeutico verrà prodotta in Italia dall'esercito, questa è la notizia di qualche tempo fa, di qualche giorno fa, questo per quanto riguarda l'uso terapeutico negli ospedali, ma la canapa a basso contenuto di THC, mi dica lei se sbaglio, si può già produrre e adesso c'è uno stabilimento importante per la trasformazione di questa canapa, che ha aperto da poco in Puglia, siete voi? Esatto, e la chiamiamo canapa industriale per differenziarla bene da quella ad uso medico. Com'è che la chiamate, perché è andata via la linea? Canapa industriale. Canapa industriale. Cosa si fa, esatto, con questa canapa industriale? Ma noi facciamo la filiera della fibra, prepariamo prodotti per l'edilizia, per l'agricoltura, per la zootecnia. Okay. Di fatto lavoriamo la canna e ne esce fibra e canapulo. Sì, allora per l'edilizia per esempio cosa si fanno? Intonaci, no, non so, mattoni? Esatto, si mischia la calce, la usano per fare tutto, dalle solette ai soffitte, ai solai, i muri, ci sono i mattoni, si usa assolutamente in bioedilizia ed è un prodotto eccezionale. Perché? Perché è particolarmente isolante o cose di questo genere, avevamo letto. È particolarmente isolante e soprattutto è totalmente organico. Nel momento in cui non si usa più o non va più bene, la si rimischia, la si riusa, la si butta nei terreni e non inquina. Ah, ok, quindi diciamo un'edilizia totalmente sostenibile da questo punto, cioè utilizzando solo mattoni, sì, con questa fibra di canapa non si... Non... Beh, la calce è naturale, è minerale, e sì, la canapa è vegetale, è organica, per cui l'insieme è vincente. Ok, questo per quanto riguarda l'edilizia, aveva fatto un elenco di 3 punti. Edilizia, credo anche agricoltura. Zootecnia, facciamo le fiere per animali piccoli e grandi, e invece per l'agricoltura si usa per faccianare i terreni, per evitare che crescano le infestanti. È super azotante per il terreno, mantiene l'umido sotto e quando si scioglie, si è sciolta. Ecco, no, aspetti, questo aspetto ce lo spieghi meglio perché non si è capito. La fibra mischiata al, sì, canapolo viene impacchettata, sì, e viene poi usata in agricoltura, sì, chiaramente piccola agricoltura, non sui campi grandi, per cui vasi, giardinaggio, eccetera, per tenere a bada le infestanti. Quindi viene messa tipo reticolo, sì, quando piove l'acqua rimane sotto e l'azoto che ha la pianta va nel terreno, sotto rimane umido, non crescono le infestanti perché è un reticolato di fibra, e dopo un anno non c'è più nulla perché si è sciolta, si nel è sciolto terreno pure. Ma è una specie di, no, non so, io dico proprio una bestialità di pesticida naturale. Sì, esatto, questo senz'altro, è un materiale naturale che non viene lavorato in nessun modo, c'è solo una prima trasformazione e poi unita canapa e, scusami, fibra e canapulo, mm-hmm, viene usata appunto. E questa cosa funziona però diciamo in piccole situazioni, nei, sì, vasi o anche, sì, in piccoli orti? Esatto, per il momento è così. Beh, insomma, comunque promette di essere molto interessante. È assolutamente molto interessante, per una pianta di limoni che non fioriva più e con questo trattamento, ma veramente nel giro di 20 giorni è iniziato a fiorire, a fare dei frutti meravigliosi. Ma questa, sicuramente serve. Questa roba qua che lavorate voi, si può anche fumare? Ma non ti sballa. Quindi è inutile, se diciamo. Se la vuoi fumare, te la puoi fumare, ma sei matto perché non ti sballa e ti intossica. Ecco, addirittura, perché una volta intervistando un produttore, mi pare calabrese, disse che insomma lui doveva tenere a bada un po' il campo di questa canapa a basso THC perché qualcuno forse per errore andava per fumarsela, gliela portava via per fumarsela. Invece... Vabbè, la pianta è assolutamente identica, sono sorelle, solo che le nostre sono controllate, per cui non hanno THC. E nel momento in cui non hai THC e tu la fumi per il THC, non ti fa nessun effetto. Certo. Forse piuttosto che il tabacco fa ancora meglio la canapa industriale, insomma. Cioè, si tratta di adesso questo stabilimento, quante persone lavorano lì da voi? Sono 2 turni da 2 persone, per cui sono 4 persone al macchinario e abbiamo 2 o 3 persone in ufficio che, sì, ci danno una mano. Quindi insomma ancora parliamo di piccole dimensioni, perché assolutamente però sì, voi... ma è interessante per la campagna, perché, certo, nel momento in cui andremo a regime l'anno prossimo con 500 ettari interesserà tante aziende agricole, insomma. Quanto rende a questo punto, diciamo, la produzione della canapa? Perché mi metto nei panni di chi ha un terreno e potrebbe dire, vabbè, perché no? Potrei farlo anch'io se c'è questo sviluppo. Allora, l'unica cosa esserci... che posso dire sicuramente che rende più del grano. Primo anno bisogna imparare a metterla in campo e a farla crescere come si deve. Secondo anno si raggiunge più o meno la media che ti fa avere reddito. Il terzo anno si parte con una bella produzione. L'unica cosa che posso dire è che rende più del grano, poi dipende chiaramente dalle lavorazioni, dai terreni, da dove sono, se è tuo il terreno, se sono tuoi i macchinari. Beh, certo, questo dalle condizioni al contorno, sì, che poi valgono anche, esatto, per chiunque produca e abbia un terreno su cui produce qualche cosa. Esatto. A questo punto, cioè, si tratta praticamente del recupero anche di una vecchia produzione, perché la canapa si produceva e si lavorava. Fino a quanto tempo fa? Sì. Poi è sparita. Quanto tempo fa? Ma è sparita? Fino agli anni 50 più o meno. La verità però è che era assolutamente solo per il tessile. Oggi il tessile in Italia, oggi, tra poco si farà anche in Italia, ma per il momento non è più fatto, non è più fatta per fare tessitura, per cui direi che a un 50 anni, anche 60, che non si faceva più. Ecco perché bisogna imparare un po' a coltivarla come si deve. E come mai c'è, secondo lei che ci sta in mezzo, c'è stata questa sparizione soppiantata da altre cose, altri materiali probabilmente? Materiali un po' gli hanno fatto la guerra per il THC, per cui l'hanno fatta diventare tutta marijuana, quando di fatto non è assolutamente marijuana. Quindi diciamo oggi superata questo pregiudizio, questa distinzione, torna ad essere una produzione che molto può interessante rendere. Con un mille scopi a questo punto e non più solo la tessitura. Va bene, staremo a vedere, vi seguiamo perché la cosa è interessante, è una produzione naturale, ha molti impieghi, abbiamo sentito zootecnia, agricoltura, edilizia, anche nel tessile, perché c'è anche questo, si possono fare anche tante cose. Anche nel tessile promette, poi c'è la carta, poi c'è la plastica, insomma stiamo facendo studi con le varie università e istituti privati e non di ricerca per cercare di sfruttarla al meglio perché ha veramente dei potenziali interessanti. Più impresa, più lavoro per tutti quanti, perché brava. È molto interessante. Più impresa, più lavoro, un ritorno al naturale, ma guardando al futuro, viva la canapa. Esatto. Grazie Rachele Invernizzi, grazie, in bocca al lupo per quello che fate, a presto. È responsabile di questo piccolo per ora stabilimento di produzione, di trasformazione, non di produzione, di trasformazione della canapa in Puglia. 800 24 00 24, adesso voglio sentire un po' di ascoltatori su questa storia dei pesticidi, delle mele, del Trentino e poi anche il personaggio della settimana. Abbiamo qualche chiamata sul personaggio? Siamo stati troppo difficili come indizi, troppo difficili, mi dice Lucia Tolve dalla redazione, ma da in regia. Adesso quindi dobbiamo dare un altro indizio? Subito? Aspettiamo? Li ripeto, facciamo così. Ha partecipato alla notte degli Oscar ed è, se facesse l'università, sarebbe in Erasmus. Stiamo cercando un personaggio che c'ha una notizia questa settimana. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, io lo ripeto, cari ascoltatori, svegliatevi però, perché insomma ormai manca poco alle 10, manca 10 minuti alle 10, dovete svegliarvi. Abbiamo messo in palio il corso Business English, tutti i libri e i DVD del corso d'inglese del Sole 24 Ore, che trovate in edicola se lo volete comprare il giovedì e il venerdì, ma oggi ve lo regaliamo. Però dovete indovinare il personaggio della settimana, cerchiamo un personaggio e gli indizi sono che ha partecipato alla notte degli Oscar, se facesse l'Erasmus, scusate, se facesse l'università sarebbe a questo punto in Erasmus. Io credo a questo punto che bisogna aggiungere un altro indizietto, aspettiamo un attimo, vediamo che succede, cari ascoltatori, se no tra pochi minuti aggiungiamo un Erasmus, buonanotte, un indizio. Barbara da Milano, buongiorno. Mi chiamo Barbara, sono naturopata, sì, e mi occupo di alimentazione da molti anni. Sì. Un aspetto molto interessante della canapa, di cui si parla poco, sì, è la valenza alimentare nutrizionale della canapa. La canapa è ricchissima di proteine. Quindi noi in questo mondo in cui l'uso della carne dopo tutto potrebbe essere diminuito, sì, possiamo approvvigionarci molto bene con le proteine della canapa, non solo, quindi proteine, per esempio un cucchiaio di questa polvere proteica può essere messa nello yogurt, nei latti vegetali, di riso, eccetera. Poi bisogna sottolineare che la canapa è ricchissima di acidi grassi essenziali, omega 3 e omega 6, che sono degli acidi grassi per noi appunto essenziali, quindi indispensabili. Sarebbe stato interessante, Barbara, intanto grazie per averci chiamato, chiedere alla nostra amica che ha uno stabilimento per la trasformazione della canapa in Puglia se fanno anche questo tipo di uso alimentare. Manuela da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono Manuela, ho una piccola azienda agricola. Sì? In provincia di Brescia, appunto a Gavardo. Noi, azienda agricola e turistica, produciamo da ormai 10 anni delle mele in varietà antica, proprio perché volevamo cercare di avere delle mele naturali, tra virgolette. E posso sicuramente dare ragione al dottor Dal Piazza, perché sì, effettivamente è impossibile produrre senza usare un po' di questi fitosanitari. Noi ovviamente, cioè, non è che è impossibile, facciamo. È possibile, però diciamo si perde troppa parte del raccolto, non so come dire, cioè troppe mele forse, quindi non è più redditizio, non è che non è possibile, credo. No? Esatto, nel senso che la produttività è sicuramente calerebbe della metà, meno della metà, e la cosa secondo me più non è neanche tanto la produttività, perché eventualmente se c'è mercato va bene anche così, ma le mele non sono belle da vedere. Va bene, questo è un'altra grande questione, però, perché dovremmo anche imparare a capire, Emanuela, se ci interessa di più la mela bella da vedere o la mela buona da mangiare. E la bobina continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola. senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare. Perché? Perché ci vuole orecchio. Ritroviamo la nostra Camilla Masala. Ciao Camilla. Ciao Alessio, buongiorno. Ciao, fondatrice di Pupulito. Pupulito.com è il sito, un servizio di vendita e noleggio di pannolini lavabili. Insomma, chi ci segue se la ricorda, si ricorda che anche la introducevamo così, le notizie sostenibili. Camilla, intanto dobbiamo rinfrescare un po', tutto il tuo mondo, che è anche il nostro mondo. Camilla, io l'ultima volta ti avevo lasciato che stavi tentando di fare il record, il Guinness dei primati di cambio di pannolini. Com'è andata a finire? È andata bene, nel senso che adesso abbiamo un bellissimo attestato del World Guinness Record, perché abbiamo superato il Guinness dei primati cambiando in tutto il mondo simultaneamente più bambini col pannolino lavabile. 8.459 bambini, naturalmente non tutti a Novara, ma in 18 paesi del mondo. Sì, perché tu sei una delle prime, forse in Italia, che sei partita con questa, adesso ce ne sono di lavanderie che offrono questo servizio, ma insomma tu quanti, 2 anni fa, 3 anni fa sono Due anni e mezzo, adesso come pupulite non ci sono solo io, ci sono anche Elena e Clara, che sono altre due pupulite che Fantastico. Offrono il servizio in altre aree d'Italia. Senti, tu avevi preparato un po' di notizie, adesso non abbiamo moltissimo tempo, io però ero rimasto incuriosito, visto che fra un po' inizia la scuola, insomma, dalle iniziative di educazione scolastica e di asili che hanno a che fare con l'ambiente in un modo originale. Ci vuoi parlare di questo? Sì, perché probabilmente alcuni di noi hanno già sentito parlare degli agrinido, comunque degli asili localizzati all'interno di aziende agricole. Quello che è il nuovo trend, la nuova tendenza è quello di contestualizzare l'offerta formativa educativa dei bambini dai 0, quindi bambini molto piccoli, fino a 6 anni all'interno dei boschi. Quindi un contesto sicuramente atipico, ma un contesto molto, molto ricco sia per gli educatori e gli insegnanti, ma soprattutto per i bambini, in un momento in cui il rapporto con la natura veramente sta diventando sempre più labile. Ridi perché ti riferisci a qualcosa che è successo di recente? A un'orsacchiotta mi riferisco, di cui tutti sappiamo, assolutamente senza far polemica, però è sintomatico questo caso del fatto che ormai la natura è avvertita più come una minaccia che come veramente un supporto a quello che è. E poi come qualcuno ha scritto giustamente, ha commentato, insomma, proprio la morte dell'orsa è un po' anche la morte del nostro essere naturale, il nostro amore per la natura, al di là delle indignazioni forse eccessive, no, da parte degli animalisti, però è anche questo, moriamo anche noi insieme all'orsa un pochino. Camilla, in 15 secondi, Festival della Biodiversità, di cosa si tratta? Sì, chi è a Milano, comunque transita zona Parco Nord a Milano, fino al 22 c'è il Festival della Biodiversità, è un festival dedicato appunto a natura, ambiente, con una serie di laboratori e anche cineforum, naturalmente su quello che è l'aspetto di approfondimento di natura, ma con un focus anche sull'agricoltura sostenibile. Va bene, dobbiamo fermarci, grazie mille Camilla e ci risentiremo sicuramente, ciao pupulito.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Con questo boom clap continuate, cari ascoltatori, a segnalarci le vostre canzoni, il vostro si può fare in musica. Questi sono suggerimenti della redazione, Giorgio De Luca, però siamo appena ripartiti nel weekend, aspettiamo le vostre canzoni, il vostro si può fare in musica per ripartire dopo la pausa del giornale radio. 800 24 00 24. Mi raccomando, vi state svegliando, adesso ho visto che state chiamando per il personaggio della settimana, cominciano ad arrivare un po' di telefonate, benissimo, fra poco, se non ce la fate da soli, arriviamo noi con un altro indizio. Abbiamo Neviana che ci chiama da Pomezia, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Prego. Secondo me la ragazzina pakistana Malala. Yousfzai, non mi ricordo il cognome. Perché secondo te? Perché? Si è parlato di lei perché sono stati catturati i suoi aggressori la settimana scorsa. È vero, la notizia c'è, però non è lei il personaggio a cui avevamo pensato, non è lei. Ma lei ha partecipato alla notte degli Oscar? No, non credo, perché il primo indizio era questo, Neviana, va bene. D'accordo. Ciao, grazie, ciao. Andiamo con Francesco che chiama da Bari, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Senta, qua. Io qui sto mangiando fichi bellissimi, tutti biologici. Sta mangiando fichi bellissimi? Belli grossi, come che è piovuto assai, sono un bel frutto grosso. Poi nell'inverno io, quando li poto gli alberi dei fichi, mi scarico assai. Certi fichi che sembrano delle mele, buonissime, biologiche soprattutto. Poi stiamo raccogliendo mandorle. Sì, ma adesso proprio? Adesso sta raccogliendo? Sì, siamo in campagna, sì. È iniziata a piovere, ma adesso è smesso. Ha iniziato a piovere? Sì, di qua ogni tanto piovigina. Dai, meno male, per la campagna fa sempre bene, no? Un po' d'acqua, un po' di pioggia. Ma vuol sapere la verità? Siccome che anche da noi, dall'inizio di giugno fino a metà luglio, ha fatta molta acqua e le olive sono... che ha accavallata la mossa, diciamo noi, che in effetti è un vermiciatto piccolino. E siccome io faccio agricoltura biologica al 100%, non posso fare trattamenti perché me lo proibisce l'olificio cooperativo di Toritto. Quindi le olive, noi non facciamo integrare, tutto biologico, mandorle, olive, e purtroppo se le olive, madonna, quest'anno la mosca che si è Ma come fa lei, come fa quando c'è la mosca, quando ci sono questi insetti? Cioè, voi riuscite a tenere una produttività alta senza usare prodotti? No, io sono un uomo fortunato perché ho mia moglie e mia figlia che vengono in campagna ad aiutarmi. Allora le olive che stanno cadendo adesso, li raccogliamo e li vendiamo come olive di casco, olive di terra, sempre biologiche, quindi non perdo niente. C'è gente che non ce la fa a ma lei, scusi, Francesco, questa per lei è la sua principale attività di fonte di sostentamento, l'agricoltura? Sì, io sono coltivatore diretto. Bravo, e riesce a farlo, il biologico, benissimo. Insomma, sentiamo anche l'entusiasmo dalle sue parti. Che effetto le ha fatto all'intervista sulla questione dei pesticidi a Malles? Ha sentito il produttore di mele che diceva: noi senza pesticidi non possiamo fare. Sì, pure a Toritto c'è gente che... fa lo stesso discorso con le olive, non sono contrario, ognuno è libero di fare. Va bene, giustamente, Francesco, ognuno fa come gli pare. Grazie, buona giornata e anche buon divertimento, perché poi ci si diverte anche. Gianni da Pistoia, buongiorno. Gianni, non c'è? Sì. Eccolo, prego, tocca a lei. Buongiorno. Sì. Io sento sempre Radio 24, fate un ottimo lavoro, è il sottofondo della mia giornata. Bene. Per il discorso del personaggio, a me mi è venuta in mente Elisabetta Canalis. Per quale motivo? Perché c'è stata quella querela che lei non era andata alla premiazione, non era stata invitata, insomma era andata alla notte degli Oscar, però non era stata invitata sul palco, diciamo, a prendere con Sorrentino, mi sembra. A prendere l'Oscar. Però quella, scusami Luigi, ma Gianni. Mi sa che quella era la Ferilli, però non era la Canalis. Era la Ferilli. Mi è venuto in mente questo collegamento tra con gli Oscar, insomma, con gli Oscar, quella polemica lì. No, comunque lei conclude. Non era la Canalis a cui pensavamo noi. Grazie Gianni, però, per averci chiamato. Adesso chiusura degli ascoltatori, diamo anche un altro indizio. Anzi, facciamo così, facciamo il traffico, poi facciamo un altro paio di ascoltatori. Va, traffico. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, sentiamo ancora l'800 24 00 24, Sergio che chiama da Trieste, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io sono un settantenne che ha lavorato con mio papà ancora quando ero piccolo e con mio nonno, che era dirigente di una piccola aziendina, un'aziendina che faceva lavori sulla canapa. Ah, ma adesso, questo suo padre o suo nonno? Mi scusi, non ho capito. Chi era il direttore della fabbrica? Mio papà. Suo papà. Papà. Ok. Sì. Poi il nonno aveva lasciato a mio papà e il bisnonno a mio nonno, era un discorso di generazione. Quindi è vero, no? Che insomma è un filone vecchio questo della canapa che poi si è interrotto. Ecco, noi ci facevamo arrivare la canapa dall'Emilia e sì. Adesso siccome si parla di canapa e cannabis, no? Io parlo della canapa, non sì. So se è la stessa cosa. Solo volevo dire che arrivava la canapa grezza, la pettinavamo, sì. La si filava come si fila la lana, come si filava una volta la lana con l'arcolaio, le signore con l'arcolaio, e noi abbiamo lavorato fino agli anni 70, non come il signore che ha detto che negli anni 50 è sparita negli anni 50, ha detto, ecco. sì. E noi facevamo praticamente tutto. Mio però, papà faceva tutto. Cosa facevate? Cioè, corde? Cosa facevate? Per esempio, la corda che io andavo a arrampicare sulle mie Alpi Giulia, sì. No? Me la faceva mio papà. Lui faceva le reti, per esempio, per le porta elicotteri delle navi americane che erano a Trieste negli anni 50, 46. Quindi, insomma, tante cose. Poi avete interrotto negli anni tutto. 70. No, mio papà poi è morto, si è ammalato e lei ha cambiato lavoro. Lei ha fatto un'altra cosa nella vita. Cosa ha fatto lei nella vita? Prego. Lei non ha proseguito questa attività paterna? No, perché mi sono diplomato, sono andato a lavorare in un'industria siderurgica. E questa attività è sparita? L'attività di famiglia sparita, non c'è più? È sparita, io ho ancora alcuni attrezzi di mio nonno. Adesso consiglierebbe, non so, un figlio o un nipote di riprendere questa cosa, visto che se ne no, parla. No, non rende più a livello artigianale, a livello artigianale, no? Anche perché poi sono subentrate le fibre sintetiche. Quindi, questo sicuramente. Grazie Sergio, grazie. Diversamente la pensava la responsabile dello stabilimento pugliese che abbiamo sentito, sono partiti da pochi giorni con una nuova produzione, però fanno anche altre cose, cioè questa è la trasformazione della canapa anche a scopi per l'edilizia, eccetera. Quindi non solo, come diceva l'ascoltatore, per la tessitura, insomma, per questi filati, ecco, forse questo da solo non basta. Emanuela dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, per il personaggio io avevo pensato a George Clooney. Per quale motivo? Alla notte degli Oscar, suppongo ci sia stato, anche se non ho un ricordo preciso, e sì. L'Erasmus, perché abitando anche in Italia, personaggio della settimana in quanto si sposa qui a Venezia. Guardi, tutto in linea ci starebbe anche, però non era Clooney a cui avevamo pensato. Emanuela, complimenti, però, perché oddio, anche se Clooney c'entra sempre, va sempre bene, però non era lui. Aggiungiamo allora un altro indizio a questo punto: oltre a aver partecipato alla notte degli Oscar, però attenzione, nel 2013, oltre ad aver detto che se facesse l'università sarebbe in Erasmus, diciamo che è un esperto di cucito. Al nostro personaggio piace molto cucire, attenzione però alla parola cucire, perché insomma 800 24 00 24, in palio il grandissimo premio di oggi è tutta la collana Business English 24 offerta dal Sole 24 Ore. Adesso è il momento di iniziare una campagna che faremo qua, si può fare sicuramente, con chi vorrà sostenerla, contro i vitalizi, perché i vitalizi sono veramente una cosa che non si può fare. La casta non è una donna che porta una grande gonna per nascondere le sue virtù. La casta non sei tu. È una voce che canta in coro, una massa in un corpo solo. Non è proprio bella da vedere, perché la casta è il potere. Il potere che ammazza la cultura, che mosca fossa. Va bene, io l'ho presa un po' ampia, ho detto contro proprio i vitalizi tu cure. Raffaele Zanon, ex consigliere regionale di Alleanza Nazionale, oggi presidente di Professioni Impresa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Ex consigliere regionale del Veneto, vero? Sì, sì, sì. Io l'ho presa ampia dicendo contro il vitalizio, perché insomma, secondo me, ma secondo molti, il vitalizio è una cosa che andrebbe proprio eliminata. Adesso le regioni ci stanno arrivando, per i parlamentari è anche lì ancora più complicata, però intanto mi accontento del fatto che lei abbia deciso di aderire, bisogna vedere poi se si farà, ad una proposta. Quale? Ma quella del taglio 10% dei vitalizi agli ex consiglieri regionali e parlamentari, con il fine di creare un fondo di solidarietà, in particolare per le famiglie e soprattutto per le imprese che sono in questo momento in grande crisi, certo, e che vivono una difficoltà straordinaria. Quindi in questo momento io credo che anche la politica si debba assumere delle responsabilità straordinarie. In questo caso credo che i segnali debbano arrivare. Purtroppo sia in Parlamento che in molte regioni, ecco, direi che questo è un argomento molto ostico e che crea veramente dei grandi malumori. Ecco. Però scusi, qual è l'argomento ostico, Zanon? È il tema della crisi delle imprese o del vitalizio? Non ho capito. Beh, sicuramente quando tocchi il tema dei vitalizi, ecco, sì, molti rappresentanti delle istituzioni sorvolano o non vogliono affrontare il problema, come è accaduto in Parlamento. Sì. Recentemente si è discusso soprattutto per quanto riguarda la mozione contro le pensioni d'oro, con, sì, che ha visto il voto contrario di PD, Scelta Civica, Nuovo Centrodestra, e poi l'astensione di quei movimenti che a parole dicono poi di voler cambiare, come 5 Stelle, di Forza Italia, del SEL, e credo che, ecco, su questo una riflessione vada fatta a tutto campo. Ecco, ecco, adesso lasciando da parte, diciamo, la questione delle pensioni d'oro, che è un altro tema che ci sta, sicuramente sopra una certa soglia potrebbe essere ragionevole, insomma, naturalmente escludendo pensioni medie, ecco, insomma, di gente che magari ha pagato i contributi, non, certo, tanto nella forma retributiva, che si andava in pensione con l'ultimo stipendio, e anche quella è una bestialità che adesso paghiamo. Però restando al tema dei vitalizi e della regione, per esempio Veneto, adesso facciamo un po' il punto e la chiarezza, perché si è sentito dire non ci sono più vitalizi, cioè le regioni stanno piano piano in ossequio, credo, a una legge nazionale, abolendo. Però per quale legislatura? Per esempio i consiglieri regionali di adesso in Veneto lo prenderanno il vitalizio? Diciamo, i consiglieri uscenti avranno sicuramente il riconoscimento del vitalizio. Ecco, alla prossima legislatura, ecco, scompare, diciamo, il termine vitalizio, e quindi però si prenderà comunque un assegno. Sì, ma molte regioni si stanno adeguando e stanno, sì, dando dei segnali positivi. Tra queste regioni c'è sicuramente anche il Veneto. Però ecco, io credo che la taglia vada fatta, perché è un momento difficile e perché io credo i segnali devono essere dati anche e soprattutto a livello centrale, cosa che purtroppo si stenta a vedere. E quando io toccavo il tema delle pensioni d'oro è perché ci sono alcuni rendite di posizione che hanno un sapore ottocentesco, ecco, assolutamente sì, nel terzo, senta, però, millennio non hanno ragione di esistere. Dico sempre, restiamo un attimo al tema del vitalizio. Lei per esempio quanto percepisce? Allora, innanzitutto io devo dire ancora che lavoro ancora, faccio l'imprenditore, sì, quindi sono un politico che non ha smesso di lavorare, di fare il proprio. Quindi non avrebbe a maggior ragione bisogno del vitalizio. Sociale. Quanto prende? Il vitalizio si aggira sui 3.000 euro, quindi non stiamo parlando di un vitalizio d'oro. Ecco, ma parliamo netto o lordo? Netto. Ok, lei ha aderito a questa proposta di un taglio del 10%, sarebbe disposto anche a un taglio maggiore? Non dico a rinunciare, perché insomma è sempre sgradevole sul piano personale, però solo l'unica fonte di sostentamento comincia. Non lo sentiamo più. Aia, Zanon è pronto? Eccolo, sì. Sì, pronto. Sì, pronto? Sì, ha fatto qualche manovra col telefono, no? Perché sì, no. Tolga l'auricolare se è possibile, e ci parli direttamente al telefono, perché ho viva voce, queste cose qua, perché non funziona. Sì. Vada, stava dicendo? No, sto dicendo che sicuramente bisogna dare dei segnali. Pensare che per esempio ci sia un segnale di questo tipo per, con dei fini specifici, cioè fare attenzione in questo momento al momento di crisi, alle difficoltà che stanno vivendo migliaia di famiglie e devo dire anche migliaia di aziende. Qui siamo in una regione dove gli imprenditori, ahimè, si suicidano. Ecco, io credo che questo segnale vada dato. Cioè lei dice di non, enormi, sì, di non fare una battaglia sul vitalizio, di ridurre gli assegni delle pensioni d'oro per poi rimetterle, diciamo, nel calderone delle entrate fiscali qualunque, ma di finalizzarlo a cose specifiche. Per esempio, lei dice al tema delle aziende in difficoltà, oppure di chi non ha proprio la pensione o dei più bisognosi. E questo, diciamo, è un tema che sta venendo fuori, cioè finalizzare i risparmi a qualcosa di concreto. Però le ripeto la domanda, Zanon: lei sarebbe disposto anche a rinunciare al vitalizio come privilegio ingiustificato, visto che è un imprenditore e lavora, o no? L'importante è che ci siano poi delle forme di, cioè che la pensione sia sufficiente ovviamente per campare ovviamente. Ma nel suo caso sarebbe? Ce la fa lei a farsi una pensione senza vitalizio? Ma credo di sì, quindi non dovrebbero essere problemi. Il problema è che, ripeto, il mio vitalizio è legato a una contribuzione, cioè io ho versato contributi per quel vitalizio, quindi non è certamente, diciamo, nel suo caso, ma come un po' per tutti chi ha versato questi contributi, bisogna poi trovare il modo chiaramente di non penalizzare addirittura questo aspetto. Comunque lei sarà al nostro fianco se faremo una campagna per ridimensionare i vitalizi. Ma io sono convinto che sia un atto dovuto in un'epoca in cui si parla di spending review e non si tocca una delle voci che in questo momento creano veramente una vera ingiustizia sociale. E quindi credo che su questo versante va bene, vedremo. La battaglia è già avviata, con Federico Contribuente. E noi siamo con voi. Grazie Raffaele Zanon, grazie. Buona giornata, grazie. E batteremo il ferro sicuramente finché è caldo e soprattutto cercheremo di scaldarlo ancora di più. Facciamo un'ascoltatrice, va, prima di salutarci. Graziella d'Alessandria. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo me è Marta Gastini. Ah, il personaggio della settimana, chi? Sì, Marta Gastini. E chi è Marta Gastini? È un'attrice. È un'attrice che ha lavorato con Dario Argento, sì. E molto giovane, che ha avuto più successo all'estero Dalla mia domanda avrai capito che non è lei la risposta giusta, perché ti ho chiesto addirittura chi era. Come mai, Graziella, hai pensato a questa attrice come personaggio della settimana? Perché era alla notte degli Oscar, e poi perché è talmente giovane che Erasmus. Okay. Come generazione Erasmus. Sì, è talmente giovane perché ha 22-23 anni, ha avuto un successo enorme a Hollywood, pare sia l'attrice italiana più conosciuta all'estero In Italia, almeno non da me. Meno conosciuta in Italia, ma più conosciuta all'estero. Grazie, anche in Italia. No, non era lei comunque, poi vedremo se questa attrice riceverà la fama che si merita. 800 24 00 24, strana risposta però, eh. Abbiamo dunque gli indizi, li ripeto: ha partecipato alla notte degli Oscar nel 2013, se facesse l'università sarebbe in Erasmus, il nostro personaggio della settimana, è un esperto del cucito, cioè al nostro personaggio piace molto cucire. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Allora, andiamo con Ermanno, che ci chiama da Carpi, buongiorno. Carpi, capitale del tessile di Vito, buongiorno. Ah, beati voi, va bene Ermanno. Allora, il personaggio per me è Salvatore Ferragamo. Perché? Perché è un personaggio che ha sempre avuto un filo diretto con gli Stati Uniti, personaggio che è molto alla moda e soprattutto per il suo lavoro sempre stato vicino, Beverly Hills, le star, le dive, eccetera. Quindi lei dice Oscar, internazionalità, cioè Cuscito, e ci starebbe, e ci starebbe. Ci starebbe il Manno, ma non è lui a cui avevamo pensato, assolutamente. Siamo anche un po' in qualche modo lontani, così do un'indicazione. Grazie Ermanno, comunque, grazie. Roberto da Lecce, buongiorno. Salve, buongiorno. Sì? Io avrei pensato a Cucinotta, è stata volta degli Oscar, potrebbe essere collegata a Cucito sul nome e quindi... Astuto, astuto Roberto, cucire, Cucinotta. Io ho detto cucire, attenzione a questa parola. In effetti, però non è lei. Non è lei il nostro personaggio, eh? Mancava anche il terzo indizio sull'Erasmus, vabbè. Però diciamo che aggiungiamo un altro indizio, allora, perché questa collana Business English 24 noi la dobbiamo assolutamente dare a qualcuno, eh? Allora, da... Dopo 20 anni è tornato a casa. Tenete a mente questi 20 anni. Va bene? 800 24 00 24. Ivo da Torino, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io volevo intervenire per quanto riguarda i pesticidi. Sì. Io coltivo patate a 1500 metri di altezza in montagna. Sì. In provincia di Torino, in un posto bellissimo. Beato che lei. Si chiama Burset, è sul comune di Ruhr, è un vallone dove nel 1911 abitavano circa 650 persone, adesso l'unico residente sono io. Ah, e sta lì da solo e coltiva patate, e che cosa ci voleva dire oltre a... Io volevo dire che il problema forse dei pesticidi, sì, è derivato da una coltivazione molto intensiva come, sì, quella della mela. Quindi secondo me bisognerebbe cominciare a diversificare su tutto quello che è il... Questa è una vecchia questione, in effetti, che giustamente molti agricoltori tirano fuori, cioè diversificando le produzioni, sì, c'è meno bisogno di pesticidi, perché i parassiti impazziscono, diciamo, di fronte alla varietà. Però scusi, per le mele, Ivo, come si fa? Perché le mele sono piante stabili, non è che si può variare la mela, come si fa? Sì, la mela normalmente credo all'incirca una coltivazione intorno ai 15 anni, poi viene estirpata e ripiantate altre piante. Secondo me bisognerebbe cominciare ad avere una coltivazione diversificata, magari andare su altri prodotti che non siano solamente quelli della mela. Va bene, per esempio sulla, va bene, sulla, sì, patata, sì, sto coltivando la patata, sì, però ogni 2 o 3 anni vado a modificare, vado a coltivatore coltivare un grano saraceno, ad esempio. Bravo, e calva. Questo disorienta i parassiti, è vero. Quindi lei non usa, non usa pesticidi, o sì? Io non uso pesticidi, non, no, uso concimi, non uso niente. Cioè, bravo. I miei terreni è 50 anni che nessuno li coltiva. Va bene, quindi va bene, Ivo. Di avere un prodotto buono. Grazie. Capite che poi sono situazioni una completamente diversa dall'altra, cioè paragonare quello che ci sta raccontando questo signore a 1500 metri di altezza in provincia di Torino, coltiva patate e grano saraceno, con una coltivazione di mele intensiva, sono cose diverse, ognuno ha le sue soluzioni, però forse allora è giusto quello che diceva Dal Piazza, cioè un'agricoltura integrata, sempre con meno pesticidi possibili, tendendo a zero laddove è possibile. Laddove non è possibile, i pesticidi ci sono, poi il consumatore decide se rivolgersi al biologico. Il biologico sta crescendo e questo secondo me sta anche cambiando un po' le attitudini dei produttori. Adesso vi vogliamo far scoprire, perché ci sono sindaci, politici, amministratori e amministrazioni locali, comunali, che fanno bene il loro dovere. Noi di Si Può Fare abbiamo il dovere di parlarvene. Mario Albino Gagliardi, sindaco di Saracena, in provincia di Cosenza, buongiorno. Buongiorno a lei. L'abbiamo presentata così, quella parte di politici, di amministrazioni locali che fanno il loro lavoro, insomma, ci provano a fare bene il loro mestiere. Perché, insomma, il suo comune, quanti abitanti fa intanto? circa 4.000, attualmente 3.887. Cioè, parliamo di un piccolo comune, a volte fare politica bene è più facile nel piccolo che nel grande, questo è un aiuto, però insomma intanto voi per esempio avete la più alta percentuale di raccolta differenziata di rifiuti in tutta la regione, oltre il 70%, a che punta siete arrivati? Oscilliamo dal 69 al 73, diciamo, vari, adesso sono 3 anni che oscilliamo su questa percentuale. E questa è una cosa importante, cari ascoltatori. Come fate? Con la raccolta porta a porta? Sì, porta a porta spinto. Praticamente non ci sono cassonetti di nessun genere sul territorio comunale. Noi andiamo a prendere di tutto, secondo le istruzioni sì. che abbiamo dato ai cittadini. Quindi i cittadini devono fare alcuno sforzo, se non lasciare di fronte all'uscio della propria abitazione le frazioni secondo il calendario settimanale. Beh, chiaramente ben differenziato. Sì. È che non devono mettersi il cappotto per andare presso il cassonetto a conferire, quindi anche in vestaglia devono soltanto allungare la mano destra o la mano sinistra fuori dell'uscio e noi andiamo. Tac, voi passate e via, raccogliete e differenziate, capite ascoltatori? Perché abbiamo 3 ore di tempo, dalle 6 di mattina sì. fino alle 9. Perché uno potrà dire, no, ma ci sono questioni più importanti, il comune ha altre cose, deve fare altre politiche, però quella dei rifiuti è una cosa fondamentale, basta guardare dove non funziona, come per esempio anche in zona della Calabria abbiamo visto ci sono discariche che abusive, inceneritori che non funzionano, in Sicilia, a Napoli continuano a mandare rifiuti all'estero, quindi questa cosa qua che lei fa e che il vostro comune fa benissimo è fondamentale. A me ha incuriosito una cosa in particolare, perché oltre agli sconti fiscali ai cittadini che sono più virtuosi, perché fate anche questo, no? Sì, noi abbiamo un sistema di codice a barre con i lettori ottici, i nostri netturbini sono muniti di un lettore ottico con cui leggono sì. i codici a barre che sono segnati sui sacchetti, cioè il cittadino la mattina prima di poggiare il sacchetto o comunque il recipiente, perché per lui è un recipiente, deve attaccare il bollino che noi mensilmente diamo a tutti i cittadini, quindi ogni cittadino ha un numero sì. assegnato e noi da quel bollino che troviamo sul sacchetto o sul recipiente possiamo andare a individuare la famiglia che ha prodotto quel E poi che succede dopo? E noi abbiamo un sistema, vengono scaricati giornalmente questi dati, un database che sì. è presso l'ufficio del e alla fine chi ha fatto più punti vince, come il fantacalcio. Sì. No, diciamo che gli diamo un buono sconto di acquisto, anche su questo dobbiamo dire di acquisto che, di che cosa? Qualsiasi genere in tutti i negozi del ok, quindi c'è una collaborazione anche da parte degli esercenti, insomma dei negozi, quindi capite come si può fare, diciamo, circolarità questo, anche in questo senso. Su questo devo fare sì. una precisazione che purtroppo in base alle misure sempre sì. più restrittive del governo, noi abbiamo negli ultimi 3 anni quantificato questo e quest'anno a Natale gli diamo tutti i 3 anni, perché purtroppo abbiamo assegnato i premi, abbiamo consegnato l'attestato e qui è un errore di cui mi pendo, nel senso che non sono riuscito questi 12.000 euro a distribuirli per le restrizioni, abbiamo comunicato ai cittadini, ma a Natale glieli daremo tutti e 3 anni insieme, così avranno un bel gruzzoletto. Ecco, vabbè, insomma, questo poi sono questioni sono anche... No, sì. questo lo voglio dire per onestà, se un ascoltatore di Saraceni dice, ma il sindaco dice fesseria... Va bene. Lei ha precisato la modalità con cui viene assegnato questo incentivo fiscale. Senta, però a me ha colpito soprattutto un'altra cosa. Cioè, è vero che voi riuscite anche a vendere un po' di rifiuti in giro? La nostra originalità è triplice, perché senza questi 3 fattori originali sì. noi non saremmo riusciti a fare una buona amministrazione che sembra miracolosa, non perché noi siamo... Però mi dica della vendita dei rifiuti, perché poi dobbiamo salutarci, sindaco. Allora, noi praticamente... differenziamo sì. Facciamo il 55% di tra il secco e l'umido e il 45% è di differenziata secca, quindi sono cartone, carta, plastica, vetro, acciaio e alluminio. Questo noi non li consegniamo al conferitore regionale, ma abbiamo un contratto direttamente con il CONAI, quindi noi consegniamo queste queste frazioni differenziate. E vi fate pagare. E ci facciamo pagare. E quanto noi, vi pagano? Come? Al chilo, al quintale, alla tonnellata? Allora noi il cartone a 35 euro a tonnellata, la carta a 94,95, la plastica a 291,62, il vetro a 35,87. Sentite come è preparato il sindaco e sa tutti i prezzi. Però mi dica una cosa, perché voi saltate questo passaggio e gli altri comuni invece conferiscono, cioè danno al conferitore, come ha detto lei, regionale? Ci perdono qualcosa? Non lo so, i latini mi hanno insegnato cui protest, c'è sempre qualcuno che ci guadagna. E lei ha detto ci voglio guadagnare io, il mio comune, i rifiuti sono i miei, ci guadagno io. Di guadagnarci, per cui noi abbiamo tre originalità, questo ce le devo dire se non si capisce. Noi il sistema l'abbiamo internalizzato, è l'azienda speciale comunale, molto efficiente, economica e così via, che gestisce sia il ciclo dei rifiuti sia il ciclo delle acque. Quindi noi queste cose le facciamo noi. Tutte in casa, va bene. Dobbiamo salutarci, sindaco, perché adesso dobbiamo dare la linea al traffico. Però insomma, grazie a Mario Albino Gagliardi, sindaco di Saracena, per quello che fa, anche per essere venuto qui da noi a spiegarcelo. Avete capito, insomma, si può fare, raccolta oltre il 70%, rifiuti venduti direttamente, si incassa anche qualcosa. Io non capisco perché dalle altre parti questa cosa non si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Via con un po' di ascoltatori, con ritmo, in maniera che riusciamo a far parlare tutti. Maddalena dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, io volevo rispondere per il personaggio famoso. Sì. Avrei pensato a Daniel Day-Lewis. Perché? Perché ha partecipato agli Oscar 2013 vincendo come miglior attore per il film Lincoln. Giusto. Poi per quanto riguarda l'Erasmus del Cucito, per l'esperienza che ha avuto in Toscana, dove ha imparato a fare il calzolaio, quindi... Bellissima questa, Maddalena, è quasi meglio di quella che avevamo pensato noi, però non era questo Maddalena, grazie. È un altro il nostro personaggio della settimana, è l'ultimo indizio, forse è quello più che può aiutare di più. Dopo 20 anni è tornato a casa, tenete a mente questi 20 anni. Io, poi, se non indoviniamo per una volta, può succedere, sarebbe la prima volta che non si indovina, e il Business English 24 lo regaleremo la settimana prossima. Che dobbiamo fare? Michele da Sondrio. Buongiorno, io avevo pensato a Julie Delpy. Chi è? Un'attrice praticamente classe 1969, ascoltando quelli che sono stati anche gli indizi che hai dato, ti do del tu, scusa. Sì. Anche perché ho scartato quelli che sono secondo me i personaggi più famosi, quindi ho capito, però Michele, dal fatto che ti ho chiesto chi è Julie Delpy avrai capito che non era lei il personaggio. Sì, certo. Ho pensato, no, come prima, come l'altro ascoltatore è sbagliato, perché questa aveva dichiarato che ama cucirsi gli abiti. Insomma, gli indizi servono anche per portarvi un po' fuori strada, giustamente, sennò sarebbe troppo facile. Grazie Michele per aver partecipato e giocato con noi. Paolo dalla provincia di Milano. Buongiorno. Mi devo scusare, ma ho potuto ascoltare la trasmissione solo molto, uno spazio ristretto. Questo non importa. Il politico, quindi non sono in grado di dare della soluzione, però volevo fare un appunto. Sì. Visto che la trasmissione si chiama Si può fare, ed è questa, le pongo a lei una domanda. Sì. Lei sa perché è stato instaurato il vitalizio? Io so perché lo toglierei, mi lo dica lei perché è stato instaurato? Allora, questa domanda la posi molti anni fa a un ministro del lavoro. Sì. E gli chiesi, lei mi deve dire le ragioni per cui... Sì, ma ce lo dica però velocemente, Paolo, perché... Velocemente. Sì. Nel 47 c'erano stati molti politici che erano stati messi in prigione, che erano andati all'estero, e quindi non avrebbero potuto acquisire quegli anni per poter maturare la pensione, per cui era stato stabilito che per tutti questi politici qui avrebbero goduto di un vitalizio proprio per recuperare questi anni. Poi chiesi al ministro, ma scusi, ma perché è rimasto tuttora in vigore? E ce ne siamo dimenticati. Allora, io sono del parere che questo vitalizio è illegale. Bravo, bravo Paolo. Perché... Lei stia al nostro fianco, perché proveremo a fare una piccola campagna, per quanto possiamo, per entrare su questo argomento e dire stop al vitalizio, riducetelo, rivediamolo, diminuiamolo, tutto quello che volete. Non si può più fare. Grazie Paolo. Adesso, settimana europea della mobilità sostenibile. Ne parliamo con i ciclisti. se vuoi andare in bicicletta, non devi studiare matematica e fisica, ma ti basta stare con me. Giulietta Pagliaccio, presidente FIAB, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ci risentiamo, ci risentiamo. Allora, intanto ci siamo lasciati alle spalle un agosto nel quale c'è stata un po' di maretta sulla questione di andare contro mano, non andare contro mano. Però non adesso apriamo il tema. Ecco, diciamo, non si va contro mano in bicicletta per il momento. No, si può però in qualche caso andare contro senso laddove indicato, che è diverso dal contromano. Che si può andare contro, come ha detto? Controsenso. Sì. Per esempio, il contromano è una cosa diversa. Faccio sempre l'esempio: sì, in Inghilterra, se prendo una strada e tengo la destra, sì, in Inghilterra si va a sinistra, sì, io sono contromano. Lo stesso si può dire per un inglese. Quindi la mano destra in Italia è quella che ti dà l'indicazione di come devi proseguire in strada. Quindi non contromano, cioè tenendo nell'altro senso la sinistra, perché andresti addosso una macchina, ma il controsenso è già previsto dal codice. Ci sono strade, ad esempio, che hanno un senso per le auto e l'altro senso per il trasporto pubblico, i taxi, sì, eccetera. È opportunamente indicato esattamente quello che si chiede anche per la mobilità, sì, ciclistica. Tra l'altro le corsie preferenziali per gli autobus e per le biciclette sono terribili per i ciclisti. Esatto, perché esatto, sei lì che ti passa l'autobus a fianco, è veramente brutto. Comunque, questa cosa la vedremo come andrà. Io adesso non abbiamo molto tempo a dire la verità. Noi no, ci torniamo, certo, su questo argomento sempre, ogni volta che bene, c'è un pretesto. C'è questa settimana europea della c'è qualche attesa da queste iniziative, dal vostro punto di vista, o sono puramente simboliche, Giulietta? Sicuramente servono, perché serve ad attirare l'attenzione sul tema della mobilità sostenibile in generale e ciclistica in particolare. Servono per attirare l'attenzione soprattutto delle amministrazioni pubbliche, che devono aiutare i cittadini ad utilizzare un mezzo di trasporto diverso dall'auto privata, nel nostro caso ovviamente la bicicletta. E allora la settimana serve a questo, si fanno iniziative anche simpatiche, carine, che ti permettono come cittadino di provare questo modo diverso di vivere la città e dall'altra parte di dire all'amministrazione pubblica: attenzione, che noi però abbiamo bisogno della ciclabile, della zona 30, sì, dei passaggi rialzati, eccetera, eccetera. Qual è la città più amica delle biciclette al momento in Italia? In 10 secondi, così per chiudere, poi ci risentiremo. Ce ne sono tante. Me ne dica due. Due, Bolzano e Ferrara. Va bene, Ferrara, storica città delle bici. Grazie Giulietta Pradeccio della FIAB. Noi ci dobbiamo fermare qua. Grazie a tutti. Lucia Tolve, Andrea Piana, Giorgio De Luca, Peter Bescapè. Ciao da Alessio Maurizio, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao, ciao. Sì!